Lettera inviata a Roma dalla casa madre della compagnia Fugger in Augusta, datata 6 maggio 1544. All'illustrissimo ed eminentissimo cardinale Giovanni Pietro Carafa in Roma. Alla reverendissima signoria vostra auguro salute e ogni bene, serbando la speranza che queste righe, verbate da un pio cristiano servo devotissimo di Santa Romana Chiesa, non conoscano altro sguardo che quello di Vossignoria. I lunghi anni di amicizia che legano la mia famiglia e la signoria vostra consentono di non dover imbellettare di false parole la grazia che mi accingo a chiedere presso di voi. In più di un'occasione, l'eminenza vostra ha voluto concederci l'onore di prestare i nostri servigi agli affari da ella condotti in terra germanica. Più di una volta, quest'anima è stata onorata di prestare aiuto, con i mezzi che il buon Dio ha voluto concederle sulla terra, ai mercati e alle trattative che la signoria vostra ha intrapreso quassù. Tra tali servigi si può certo annoverare l'aver messo a disposizione un'ingente somma di denaro per gli agenti che la signoria vostra mantiene in terra tedesca e alla corte dell'imperatore. Ebbene, un tal debito potrebbe d'improvviso scomparire, come non fosse esistito mai, dai libri contabili di questa compagnia, qualora voleste concederci ciò che richiediamo. Dovete sapere che la nostra compagnia è stata oggetto di un raggiro formidabile e spaventoso, al quale è necessario porre rimedio il prima possibile. E poiché reputo sconveniente per gli interessi della famiglia lasciare che la cosa trapeli pubblicamente, sono spinto a chiedere l'intervento della signoria vostra. Senza entrare troppo nei dettagli dell'infernale marchingegno, basti sapere che da qualche tempo m'ero accorto di una certa incongruità nei conti annuali della compagnia. Qualcosa non collimava perfettamente, questione di virgole, di qualche cifra irrilevante sui libri contabili. Eppure rimaneva una sensazione, poiché la vastità degli interessi dei Fugger in Europa è quasi di per sé incalcolabile. Figurarsi quanto può essere facile scoprire piccole falle. Ma la falla c'era, e ogni anno che passava la sensazione prendeva le fattezze del sospetto e via via della certezza. Era come se le filiali periferiche della compagnia sbagliassero minimamente i conti, quasi arrotondassero per eccesso la quantità di denaro emessa in forma di lettere di credito. Tant'è che da principio pensai a uno dei nostri agenti quale responsabile del raggiro. Eppure pareva strano, giacché, prima di scegliere gli uomini a cui affidare la cura dei nostri interessi, li valutiamo da capo a piedi e spesso vincoliamo a noi i loro patrimoni personali, di modo che siano tutt'uno con l'interesse della compagnia. E infatti mi sbagliavo. Il parassita proveniva dall'esterno. La signoria vostra non può immaginare quale spesa e quanto tempo siano stati necessari per scoprire i colpevoli. Siamo stati costretti a inviare commissari speciali in ogni filiale e in ogni agenzia Fugger, affinché supervisionassero per un anno intero le attività di prestito. Tra agenzie e filiali sono più di 60 in tutta Europa. È occorso un intero anno per ripercorrere a ritroso, di mercante in mercante, i passaggi delle lettere di credito da noi emesse e capire che cosa non tornasse nei nostri conti. È stato in questo modo che abbiamo potuto scoprire che alcune delle lettere di credito riscosse presso le nostre agenzie erano false. Ebbene, l'elemento comune nei commerci su cui avevamo indagato era la presenza di un apparentemente innocuo mercante di lino, zucchero e pellami. Per quanto potesse apparire singolare ai nostri occhi, abbiamo seguito i suoi spostamenti commerciali e li abbiamo trovati quanto mai insoliti. Senza commerciare in beni troppo preziosi, costui copriva distanze doppie a quelle che gli sarebbero bastate per vendere la propria mercanzia. Ciò che dalla Svezia poteva essere venduto sul mercato di Anversa veniva trasportato in Portogallo. Ciò che da Brest poteva trovare un ottimo mercato in Inghilterra finiva sulla piazza di Amburgo e via di questo passo. Il nostro mercante prediligeva insomma le piazze periferiche. Inizialmente pensammo che una tale scelta fosse dovuta alla speranza di guadagni maggiori, ma scoprimmo che non era vero, giacché i prezzi praticati da costui non erano affatto superiori alla media. Ma il particolare ancora più strano era che egli risulta essere un creditore della nostra compagnia, avendo aperto un conto presso la nostra filiale di Anversa 6 anni fa. Il suo nome è Hans Grub, tedesco dunque di nascita. Tuttavia, i miei commissari non hanno trovato traccia di questo nome presso alcun mercato tedesco. Costui sembrava essere comparso per la prima volta ad Anversa nel 1538. Abbiamo dunque indagato in quella città, scoprendo che il suo socio in affari è un personaggio quanto mai ambiguo e sospetto. Un certo Loy, o Ludovic de Chalidecker, o Eloy Prüsting. Fino a 6 anni fa, un semplice copritetti, e già conosciuto dalle autorità di Anversa per essere in sospetto di eresia. Eravamo ormai certi di avere individuato i responsabili del terribile raggiro ai nostri danni. Ancora non sappiamo come costoro siano riusciti a riprodurre copie perfette di lettere di credito Fugger. Tuttavia, non abbiamo intenzione di attendere oltre, rischiando di subire ulteriori danneggiamenti. Or dunque, il motivo per cui mi sono risolto a chiedere l'intervento di Vostra Signoria è che non reputo utile, in un frangente del genere, denunciare i due sospetti alle autorità locali. La compagnia riceverebbe un danno irreparabile se trapelasse la notizia che circolano per i nostri mercati lettere di credito falsificate. Si produrrebbe, infatti, una terribile crisi di fiducia nei nostri confronti e in poco tempo rischieremmo di vedere i creditori ritirare il loro denaro dai nostri forzieri. Mi permetto di aggiungere che una tale conseguenza sarebbe terribile per molti e non soltanto per i Fugger. Gli interessi della compagnia sono strettamente legati a quelli di molte corti, non da ultima la Santa Sede. Ebbene, v'è per nostra comune fortuna una via percorribile che consentirebbe agli uni e agli altri di risolvere questo problema senza che alcuno ne riporti gran danno. Come dicevo, questo Eloy Prüsting è già da tempo in sospetto d'eresia, da che pratica e predica la comunanza delle donne, l'abbandono dei possessi privati e nega, così dicono i miei informatori, l'esistenza del peccato. Finora, la scaltrezza di questo piccolo eresiarca ha consentito a lui e ai suoi compari di sfuggire sempre alle accuse di blasfemia e apostasia. Ma da che Sua Santità Paolo III ha riordinato l'Inquisizione, mettendone alla guida la Signoria vostra, posso sperare che detti loisti vengano finalmente incriminati e processati. Ciò che chiedo alla magnanimità della Signoria vostra non è né più né meno che di indirizzare le attenzioni del Tribunale del Sant'Uffizio su questi dannati eretici, nonché scaltri truffatori, affinché cessino di disseminare le loro idee blasfeme e al contempo di danneggiare la nostra compagnia, senza che in questo modo si sappia nulla del danno da essi arrecatoci. Confidando umilmente nell'intervento della Signoria vostra e confermando l'amicizia che ci lega, bacio le mani di Vossignoria. Di Augusta, il 6 maggio dell'anno 1544, Anton Fugger, servo di Dio.